Il cane che porta il pranzo al suo padrone, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Mal resiste il cuore al dardo d'un bel guardo e dalla vista d'un sacchetto di denaro troppo raro è trovare chi resiste. Soleva un can portare in una cesta al collo il pranzo del suo buon padrone. Per quanto temperante a suo dispetto e sapesse resistere al boccone, non era un santo padre, poveretto, e nel suo pelo, dite, o gente onesta, se non vi tenterebbe un buon pranzetto. Strano davvero che si insegni ai cani ciò che non sanno fare i cristiani. Andando questo cane un dì col pranzo, si incontra in un mastino prepotente, che pretende la sua razion di manzo. Ma fece i conti senza l'oste, il cesto colloca in terra il nostro cane onesto e si prepara ad una lotta ardente. Ne nasce un gran fracasso e chiama il chiasso molti altri cani che andavan spasso. Erano cani vagabondi, avvezzi ad ogni calcio, ad ogni ladreria. Il nostro can, vedendo che eran pronti a sbranarlo, quei mostri in 100 pezzi e che manzo era fritto in fin dei conti, da saggio disse a quella comitiva: «Amici, andiamo adagio, un po' per uno, dice il proverbio, fa male a nessuno». E presa la sua parte, lasciò il cesto agli altri cani che addentare il resto. In 4 colpi fu tabula rasa, chi stette peggio fu il padron di casa. O città grandi, o piccole città, che mettete il denaro della gente in mani, Dio lo sa, quanto leste a giocar d'agilità, censori, appaltatori e fornitori, comincia il più valente e ruban tutti di dentro e di fuori. Se alcun men disonesto e men briccone vuol salvarsi e minaccia di parlare, gli mostran che è un minchione. Al consiglio anche lui quindi si arrende, acqua in bocca, rubare fa rubare, e più degli altri prende. Fine della favola, il cane che porta il pranzo al suo padrone. Questa registrazione è di dominio pubblico.